restino veri, per favore. Ho sentito troppo casino. Sto sbattere porte in faccia, cazzo. Ma l'aspettavo da voi, soprattutto da te. Tu sai che sto parlando con te. Sei stata la più grossa delusione della mia vita, lo sai? Casino in camera, tabacco a terra, bottiglie vuote, la faccia ferma. Osserva, e che mi serva da lezione. Fino alla prossima distrazione. È il suono mio, è un dono il mio. E la notte mi passa con la voce più bassa. Canta che ti rimbalza. Ho un forte mal di pancia. Se la vi, ho la vista stanca di osservare come un uomo in panca. Chi si gioca le chance, chi le lascia morire. Chi fa finta di capire e continua a mentire. La mia gente è questa, più pesta più resta. La mia gente è onesta, non è all'altezza della situazione. Con la prestazione, beh, ci credevate senza resistenza. L'apparenza mi incula e mi trovo sotto congiura. Dovrei differenziare come con la spazzatura. Il fascino dell'imprevedibilità è da paura. E ne fa, se l'imprevedibile si fa realtà. Mi faccio spazio quando vedo che non c'è né. Ogni passo che faccio sembra che sbaglio. Non mi butteranno giù. Io passo tutti i giorni a sclerarci, le notti a studiarvi e ci diventerò matto. Non passate di qui, ogni giorno una battaglia, uomo. Se la vi. Tutto questo l'ho detto in un mixtape per le voci di Pinnello. Fratello, ormai è 6 anni che si cammina assieme, yai.